dolore sono solo e l'ansia massale di vivere, di vivere. Paura di lasciarti e soffrire, e soffrire. Paura di invecchiare e morire. Passato, con tutti i fantasmi del domani, poi l'odio e il buio e la notte e l'assurda mia depressione. Sei con me.